100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. La crescita mondiale è stata troppo bassa, troppo a lungo e procede a un ritmo deludente. E questa è la mala conclusione diffusa ieri dal Fondo Monetario Internazionale a commento dei dati sul quadro macroeconomico globale. L'Italia è uscita dalla recessione, ma non potrà non subire i contraccolpi di questo stato di salute precario dell'economia del pianeta. Non a caso anche il governo ha corretto nel DEF al ribasso le stime di crescita del 2016 all'1,2%. Purtroppo i dati diffusi ieri dal Fondo Monetario sono più pessimisti e ci quotano all'1% quest'anno e all'1,1% il prossimo anno. Gli economisti del fondo hanno tolto qualche decimale alla crescita mondiale, che si fermerà al 3,2% quest'anno e al 3,7% il prossimo anno. Sul quadro complessivo pesano il rallentamento della Cina, prevista al 6,5% nel 2016 e al 6,2% nel 2017, e la recessione del Brasile e della Russia. La settimana scorsa, non a caso, a Francoforte il direttore del Fondo Monetario, Christine Lagarde, aveva sollecitato una forte risposta di politica economica da parte delle autorità e sottolineato i rischi crescenti di questi rallentamenti. La situazione di incertezza poi rischia di avere ripercussioni pericolose nella volatilità dei mercati finanziari, che poi si trasmette di nuovo all'economia reale. Per questo è fondamentale la politica espansiva perseguita oggi dalla BCE, con buona pace delle critiche che vengono espresse dalla Germania, a cominciare dal ministro Schäuble. E a questo proposito è importante che ieri però il presidente della Bundesbank, Weidmann, il famoso falco del BCE, abbia in realtà preso le distanze dallo stesso ministro della Merkel e abbia espresso solidarietà a Draghi. Anche questo può aiutare a rendere più credibili i passi per la crescita. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Arriva il part-time agevolato per i lavoratori più vicini alla pensione. È pronto il decreto che consente ai dipendenti del settore privato di optare per un contratto a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro tra il 40 e il 60%. Potranno fare questa scelta, che andrà concordata con la propria azienda, i lavoratori che hanno almeno 20 anni di contributi e che raggiungeranno i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2019. Bisogna quindi avere almeno 63 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 62 e 7 mesi per le donne. Si lavorerà di meno, ma la riduzione dello stipendio sarà parziale, perché l'azienda verserà direttamente al lavoratore la quota di contributi che sarebbero stati a suo carico in caso di contratto full time. In più, lo Stato si farà carico dei contributi previdenziali. Nel calcolo della pensione il lavoratore non subirà quindi alcuna perdita. A disposizione per ora ci sono solo 60 milioni di euro, quindi vedremo quanti saranno i soggetti che potranno beneficiare di questo sistema. Ma questa forma di part-time persegue due obiettivi: consentire ai lavoratori più anziani un passaggio morbido dal lavoro alla pensione e al tempo stesso offrire più opportunità per l'inserimento dei giovani nelle aziende. È una misura importante, in effetti, anche per un altro motivo, perché rappresenta il primo passo verso quelle forme di flessibilità per l'accesso alla pensione sulle quali il governo ha più volte promesso di voler intervenire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.